in primo piano. Buongiorno Alessandro, buongiorno agli ascoltatori. Oggi il tema è abbastanza obbligato. I giornali sono un diluvio di notizie e di commenti sull'insediamento del nuovo presidente Barack Obama, è evidente. E devo dire che mai forse c'è stato un coro così ampio di elogi e di speranza anche per quello che il nuovo presidente rappresenta per gli Stati Uniti e per il mondo. È talmente vasto questo coro, con poche eccezioni che adesso vedremo, da lasciare quasi stupiti. Inizia l'era Obama, rialzati America, è il titolo del Messaggero, vinceremo la crisi, è l'ora della responsabilità. È questo tema della responsabilità che ritorna nei titoli insieme all'altro che viene segnalato, l'altro punto del discorso presidenziale che viene segnalato, cioè la mano tesa all'Islam. Qualche giornale si ricorda anche di dire che Obama ha parlato sì di mano tesa, ma anche detto che i nemici dell'America, di coloro che alzano il pugno chiuso, saranno colpiti, e ha ricordato che il paese resta in guerra con i terroristi. Il Corriere della Sera sceglie di titolare sull'era di responsabilità, appunto. Mano tesa all'Islam, ma lotta al terrore, folla immensa al giuramento. E così anche La Stampa, una grande foto di Barack Obama mentre giura sulla Bibbia di Lincoln, ecco la Bibbia di Lincoln che compare anche nella foto in prima pagina del Sole 24 Ore. Occasione Obama, titola La Stampa, il presidente ragazzo è il commento di Barbara Spinelli, mentre Carlo Rossella titola il suo commento Ma occorre concretezza. E poi c'è un corsivo di Massimo Gramellini, molto sintetico ma molto efficace, di cui darò poi lettura dopo, nella seconda parte della rassegna. Il Tempo di Roma titola con Massimo Teodori, dagli USA un invito alla speranza. Come vedete c'è una certa uniformità, è evidente, l'occasione era particolarmente propizia per incoraggiare l'ottimismo. Danza per un re nero, titola il Foglio. L'insediamento è un rito degno di un monarca che racconta l'identità della nazione e la sua storia sacra. Mai il rituale repubblicano fu più monarchico dell'insediamento di Obama, nota il Foglio, al punto da far sembrare incongrua la stessa elezione, che invece resta la vera fonte del potere democratico. L'unità, cambiamo con lui, è una grande foto di Obama che prende tutta la prima pagina, e Concita De Gregorio, la direttrice dell'unità, scrive: un canto come quello di Aretha Franklin, una preghiera, un poema, una poesia, un discorso per la gente comune, così facile e umile e fermo che lo capiscono anche i bambini. Ha giurato mostrando al mondo il braccialetto del soldato ucciso. Ciascuno ha dato qualcosa, lui ha dato tutto, c'è scritto. Poi ha parlato di scuole, di sanità, di energia pulita e di diritti. Tutti uguali, tutti liberi, tutti con la possibilità di essere felici. Atteso la mano all'Islam, noi siamo più forti dell'odio. Chi è dalla parte sbagliata della storia, abbassi il pugno, lo accoglieremo. Ha ricordato i padri e le parole vecchie, quelle che servono. Ha detto che sarà difficile, ma non possiamo che andare dritti verso un mondo che offra un futuro di pace e dignità. Infine ha detto, il mondo è cambiato, dobbiamo cambiare con lui. La nostra striscia rossa in prima pagina è diventata grande come tutta la pagina, ha ceduto il posto all'immagine e a queste parole cambiamo con lui. Questo è il commento dell'Unità. Come vedete anche altri giornali che rappresentano, diciamo, l'opinione di sinistra, anche di una sinistra estrema, Liberazione, American Pride, grande foto del Campidoglio e di questa immensa folla che ieri assisteva al giuramento. Dicevo, le parole, i commenti che in qualche modo rompono questo coro e che introducono dei distinguo, non sono molti. Il giornale il giornale, per esempio, che pure titola su Obama che tende la mano all'Islam e segnala la folla e l'emozione negli Stati Uniti per l'incoronazione del primo presidente nero, con il suo direttore Mario Giordano, titola il suo commento: caro Barack, è tutto qui? E dice Giordano: scusate, ma non ce la faccio, non riesco a emozionarmi, ce l'ho messa tutta, ve lo giuro, niente da fare, vedo intorno a me gente che va in solluchero, fiumi di entusiasmo, commozione, fan scatenati, sento parlare di svolta globale, evento epocale, parole storiche che hanno segnato una nuova speranza per il mondo, assisto a un'euforia contagiosa che attraversa tutti, dai ministri alla passerella di moda, dai sindacalisti allo showgirl, e purtroppo non riesco a esserne parte. E anche su Libero, che titola svolta alla Casa Bianca, gli USA abbassano le ali, Obama primo presidente nero, nel discorso inaugurale si rivolge alle coscienze, ai poveri, all'Islam e dipinge un paese non più gendarme del mondo, è l'era della responsabilità. Abemus Obama, ma non sarà lui a salvarci, soprattutto ricordiamo, dice Renato Farina nel suo commento, che non è infallibile, né lui né gli americani in generale, di qualsiasi colore politico siano. Dopo l'attesa del paradiso sovietico, non saremo noi a vagheggiare come veltroni l'arrivo del salvatore dall'America. Stavolta poi proprio no. Occorre un atto di irrazionale reverenza verso la mega potenza per credere sul serio che dal paese più in crisi di tutti, dopo aver esportato denaro e azioni infetti, arrivi il vaccino di Monsieur Pasteur. Questo è il commento, come dico, scettico, ma sono voci abbastanza isolate rispetto a questo grande slancio che compare sulla stampa italiana di oggi, anche se l'Avvenire che riporta l'augurio del Papa al nuovo presidente, promuova la pace e presti ascolto a chi non ha voce, e che titola Obama: l'America è amica, torneremo guida, mano tesa all'Islam, monito ai terroristi, però l'Avvenire mette in luce anche le incognite che si aprono adesso davanti all'azione del nuovo presidente. E Andrea Lavezza nel suo commento parla proprio anche di queste incognite legate anche al tema che interessa praticamente ai cattolici, cioè la difesa della vita. Infatti il riformista, in un pezzo di Paolo Rodari, ricorda che la parola d'ordine di Obama è una discontinuità con Bush, che comporta anche nel particolare tema che riguarda l'aborto, riguarda dei comportamenti e delle decisioni che vanno in direzione opposta a quella che è stata la politica del vecchio presidente. Scrive Rodari sul Riformista: già domani, cioè oggi, Barack Obama potrebbe dare via libera all'abolizione della Global Gag Rule, che prevede la sospensione dei finanziamenti da parte degli Stati Uniti a tutte le organizzazioni non governative che si occupano di pianificazione familiare nei paesi in via di sviluppo, nel caso in cui queste si impegnino fra i diversi progetti in attività relative all'aborto. Fu George Bush nel 2006 a ripristinare la Global Gag Rule e oggi, dopo soli 2 anni e mezzo, tutto potrebbe essere ribaltato. Ecco perché la Chiesa americana, ma anche il Vaticano, guardano a Obama con un misto di speranza, ma anche con qualche diffidenza. Il quotidiano nazionale, che raggruppa Nazione, Resto del Carlino e Giorno, naturalmente titola anche questo grande prima pagina, l'era Obama, e tra gli altri servizi ha un'intervista a Gianfranco Pasquino, che è titolata Il suo messaggio è straordinario, e che tra le altre cose dice che Obama è un grande comunicatore, come Reagan. Reagan aveva una grande facilità di esprimere le sue posizioni in maniera piana, dice Pasquino a Lorenzo Bianchi. Obama però ha in più la dote che possiedono abitualmente i predicatori di colore, è una lezione che ha preso da Martin Luther King, da Jesse Jackson, forse anche da quel suo reverendo Jeremiah Wright che ha dovuto sconfessare. Oggi gli americani, dice Pasquino, debbono ricostruire, ristrutturare non solo la loro economia, ma anche il loro modo di vivere, debbono riorganizzare in maniera diversa da come è stato finora. C'è anche una disponibilità a che questa ristrutturazione avvenga anche attraverso lo Stato. Sì, c'è una grande finestra di opportunità, come dicono loro. Ma vediamo un altro punto, non irrilevante. Cioè ieri, mentre Obama parlava, la borsa di Wall Street crollava, ha perso ieri intorno al 5%. Il Sole 24 Ore oggi parla anche di questo aspetto, naturalmente, perché secondo la gran parte dei giornali non c'è un nesso diretto, evidentemente, fra il discorso inaugurale di Obama, l'insediamento di Obama e il crollo di Wall Street, però è un monito molto grave sul fatto che i problemi finanziari ed economici ci sono tutti, sono pesantissimi. Il servizio di Mario Platero su Sole 24 Ore è naturalmente è volto soprattutto agli aspetti che toccano la visione economica del nuovo presidente. Viene riportata nel titolo una sua frase: il mercato non ha rivali ma va regolato. Il presidente americano apre a un mondo nuovo e alla speranza contro la recessione. Ma appunto, mentre Obama parlava, il Wall Street gelava la festa, perdeva il 5% la borsa chiude in pesante flessione per i timori sul sistema bancario, riporta nel suo servizio Marco Valsania. Leggo questo corsivo del Sole, la frase magica che non c'è. Per 17 minuti si sono incollati alla televisione gli operatori di Wall Street, mentre sui monitor dei computer le contrattazioni parevano quasi congelate. Tutti ad ascoltare il discorso di Obama, forse per sentirsi dire la frase magica che poteva tirar fuori la borsa da 9 sedute di pesanti ribassi. Come Larry Kudlow, un noto economista conservatore, che in un editoriale ha implorato Obama di mostrarsi ottimista, così come lo era stato Ronald Reagan nel suo discorso inaugurale del 1981. E ottimista Obama lo è stato, pur con una dialettica più argomentata. Alle 18.20, ritornati ai monitor, gli operatori hanno invece cominciato a vendere e il futuro sul Standard & Poor's ha perso in pochi minuti altri 11 punti, continuando il declino fino al meno 5,3 finale, mentre i titoli di Stato salivano, e anche questo non è un bel segnale, come lo scivolone del dollaro sullo yen, quasi ai minimi degli ultimi 14 anni. Ci aspettavamo nuovi piani, un nuovo messaggio di speranza, dice un operatore, ma Wall Street il giorno dell'inaugurazione è stato quasi sempre un'occasione per vendere, compresa la seconda volta di Franklin Roosevelt nel 1937 o la prima di Reagan nell'81, perché dopo mesi di aspettative la borsa vende sulle notizie e adesso Obama è ufficialmente il nuovo presidente. La giornata di Obama, naturalmente, che rifluisce sui giornali italiani ed è un profluvio. L'America è migliore, titola Vittorio Zucconi su Repubblica e cita la frase effettivamente di forte impatto del neo presidente quando ha affermato: un uomo che 60 anni fa non sarebbe neppure stato servito in un ristorante oggi presta giuramento per assumere la più alta carica della nazione. E quindi Zucconi, che è stato, come sapete, un fiero avversario della presidenza Bush, oggi scioglie un inno al nuovo presidente, ricordando, tra l'altro lo ricordano vari giornali, che il palco su cui si svolge il giuramento fu costruito nell'Ottocento dagli schiavi neri. Dicevo di un corsivo di Gramellini sulla Stampa, che leggo perché è corto e dà un po' il senso delle cose. Certo che triste quel caravanserraglio di vecchi presidenti sciancati o in carrozzella. Il più sveglio sembrava Bush Junior, ed è tutto dire. Certo che retorica in quel predicatore che ha chiesto a Dio di proteggere gli Stati Uniti d'America. E da noi pioggia acida. Certo che noia quell'inno cantato da Aretha Franklin con un cappellino a X che non metterebbe neanche la regina Elisabetta. Certo che inutile pompa quelle 22 macchine del corteo presidenziale, meglio se arrivava da solo guidando un'utilitaria. Certo che strazio quel vestito della First Lady, lo stilista, la stilista lo avrà ricavato dalle tende del salotto di sua zia. Certo che logora quell'usanza di giurare davanti a un magistrato che se inciampi a metà della dichiarazione non ti fa neanche arrestare. Certo che paroloni in quel discorso inaugurale, virtù, speranza, responsabilità, persino l'attraversamento del Delaware ghiacciato da parte di George Washington nella guerra di indipendenza, e neanche una barzelletta, un riferimento allo sport, una confezione d'odio da tenere a portata di mano per spalmarla addosso al nemico e sentirsi in pace con la coscienza. Certo che energia in quell'uomo e in quella gente che ci crede ancora, nel suo paese, nel futuro, nella possibilità di rigenerarsi e di cambiare nonostante. Certo che invidia. E così, riprendiamo un po' gli altri temi, perché per esempio Repubblica porta in prima pagina la notizia che la presidente del Piemonte, Mercedes Bresso, sfida Sacconi e si dichiara pronti ad accogliere nelle strutture regionali Eluana, la ragazza naturalmente che voi sapete il tribunale ha deciso che può essere staccata la spina, ma il cardinale Poletto è eutanasia, fermatevi. E poi Repubblica, ma come tanti altri giornali, portano in prima pagina l'ufficialità dell'accordo Fiat-Chrysler, che ieri era stato dato come anticipazione, Marchionne, pietra miliare, e in Italia crollano gli ordini e il fatturato dell'industria. Lo ricorda anche il Sole 24 Ore, in prima pagina, a novembre ordine ai minimi da 18 anni, meno 26%, e mentre rallentano anche le entrate tributarie, c'è un punto in più soltanto. E il Corriere della Sera ha una vignetta che naturalmente lega varie notizie di queste ultime ore di Giannelli, che è sempre molto spiritoso. C'è una finestra, qui sono affacciati Kakà con la maglia del Milan, Kakà che annuncia quindi che resta al Milan, e Berlusconi con un paio di braghe con scritto PIL meno 2%, l'importante è essere felice, è il titolo della vignetta. Sempre su Sole 24 Ore, un'intervista a Walter Veltroni di Alberto Rioli, che dice: con un piano da 16 miliardi pronti a rivedere le pensioni. C'è stata una grande sottovalutazione della crisi, dice Veltroni, il Partito Democratico propone un piano da 16 miliardi di euro per realizzare alcune riforme di lungo periodo, dalla giustizia all'ambiente, dal welfare alle istituzioni. Sulla previdenza bisogna andare verso soluzioni improntate alla libertà di scelta e non a innalzamenti forzosi dell'età pensionabile. Intanto bisogna applicare da subito i nuovi coefficienti. E nelle pagine interne l'intervista ha questo titolo: ora spazio alla green economy. Su Maastricht dire che gli altri stanno peggio, ricordate che è stato usato questo argomento da parte governativa, che Francia e Germania stanno peggio di noi per quanto riguarda il rispetto dei parametri. Dice Veltroni invece in questa intervista al Sole: dire che gli altri stanno peggio è una frase da campagna elettorale, noi siamo fuori dai vincoli senza fare nulla. Questa è l'intervista. Torniamo ancora su Obama, perché insomma questa è un po' la giornata. Il manifesto, l'avvento, grande foto, grande titolo che incoraggia la speranza. Rifare l'America è il commento di Mariuccia Ciotta. E Europa è USA, leader di pace. Obama giura davanti al mondo: la speranza vince sulla paura. Rifare l'America. Rifare l'America diventa il punto che ritorna in tanti commenti. Tra l'altro sul Messaggero Carlo Azeglio Ciampi, l'ex Presidente della Repubblica, che dedica proprio un editoriale a Obama: con un titolo molto bello, perché susciti in ognuno la voglia di portare la sua pietra, la discontinuità di Obama. E questo è un punto che ritorna anche in altri commenti più meditati, meno emotivi, per esempio un'intervista di Moises Naim che dice Obama parla all'Europa, l'Europa deve fare adesso la sua parte. Bene, concludo per oggi e ci sentiamo domani mattina alla stessa ora e la linea ritorna ad Alessandro Milan.